Desa bana bhikkhave bhikkhu sitte sitta anupatti viharati. Ida bhikkhave bhikkhu tarakava sitta tarakam sittanti pasanati. Vidarakava sitta vidaraka sittanti pasanati. Tadodava sitta tadodha sittanti pasanati. Vida dodava sita vida dodan sitan di basanati. Ta mohava sitan ta mohan sitan di basanati. Vida mohava sitan vida mohan sitan di basanati. Sankhitava sitan ta khitan sitan di basanati. Vikhitava sitan vikhitan sitan di basanati. Mahagadava sita mahagadan sita di basanati. Amahagadava sita amahagadan sita di basanati. Da udrava sita da udran sita di basanati. Nodrava sita nodran sita di basanati. Tamahidava sita tamahidan sita di basanati. Adamahidava sita adamahidan sita di basanati. Vimodava sita di basanati. Avimodava sita di basanati. Iti izadava sita nupati viharati. Bhidava sita nupati viharati. Izada vidava sita sita nupati viharati. Mudhya dhamma nupati vasita dhamme viharati. Vaya dhamma nupati vasita dhamme viharati. Mudhya vaya dhamma nupati vasita dhamme viharati. Adi sita diva banada dadi visupati dahodi. Yava diva jnana madaya paridadi madaya. Anididasa viharati, nasa kinsiloke upadiyati. Eyon bhikkhu bhikkhave bhikkhu sitte sitta anupatti viharati.